sei in super forma, supera il palazzo e sfonda. Onda di rime, stile giù come proiettili. Proiettati, armati di spray e di baggy jeans, fatto a mano come un tattoo sul polpaccio in cella. Lascia il tuo nome, non si cancella. Pratico poesia rivoltella se c'è rivolta per le strade. Dai sottopassaggio alle case, slam flow magistrale. Street sound originale, illegale. Ha una potenza nucleare, un player quanto vale. Nella scena la tensione sale. Pallotto lei di tecnica mortale, perché spesso devi mostrare spessore e talento. Trovi le risposte nel cemento, guerriero del suolo urbano. Gira lontano da vestiti blu e cani che fiutano a cose in mano. Check this out, in ballo per la competition. James e sucker falsi come nelle fiction. Questo è ciò che ti circonda. Yankee o collana non importa, vediamo la tua performance.